Ethno Chic, musica ad indicazione geografica protetta. Musica con indicazione geografica protegida. Musique avec indication géographique protégée. Music with a protected geographical indication. Que tu me fazes, a contas com o mal porque passei, com tantas guerras que travei, já não sei fazer as pazes. São flores aos milhões entre ruínas, meu peito feito campo de batalha, cada alvorada que me ensinas, ouro em pó que o vento espalha. Cá dentro inquietação, inquietação, é só inquietação, inquietação, porque não sei, porque não sei, porque não sei ainda. Há sempre qualquer coisa que está para acontecer, qualquer coisa que eu devia perceber, porque não sei, porque não sei, porque não sei ainda. Que eu trazia, quantas promessas eu faria se as cumprisse todas juntas. Não largues esta mão no turvelinho, pois falta sempre pouco para chegar. Eu não meti o barco ao mar para ficar pelo caminho. Cá dentro inquietação, inquietação, é só inquietação, inquietação, porque não sei, porque não sei, porque não sei ainda. Há sempre qualquer coisa que está para acontecer, qualquer coisa que eu devia perceber, porque não sei, porque não sei, porque não sei ainda. Cá dentro inquietação, inquietação, é só inquietação, inquietação, porque não sei, mas sei é que não sei ainda. Há sempre qualquer coisa que está para acontecer, qualquer coisa que eu devia perceber, porque não sei, mas sei é que não sei ainda. Há sempre qualquer coisa que eu tenho que fazer, qualquer coisa que eu devia resolver, porque não sei, mas sei que essa coisa é que é linda. Buonasera, bentornati a Ethno Chic. Buonasera. Abbiamo voluto aprire con un piccolo omaggio a José Mario Branco, di cui avevamo già parlato l'anno scorso, no, 2 anni fa, quando avevamo fatto questa puntata sul cantautorato che viene fuori un po' e che prelude alla rivoluzione dei garofani, e che, come abbiamo sentito qui, che questo brano, insomma, fine anni 70, inizio anni 80, se non ricordo male, in Chetasso. Con questi sassofoni metropolitani. È già un brano della disillusione, insomma, dove quando, insomma, in qualche modo l'aspettativa rispetto magari alla rivoluzione dei garofani, le prospettive di miglioramento sociale sono ricadute a una situazione, diciamo, abbastanza come dire, normale, insomma, nel senso non, è un po' persa quella spinta. E questo personaggio molto coerente e soprattutto un importante arrangiatore, per esempio il disco di Zeca Afonso, Cantigas do Maio, l'ha arrangiato lui, ma molti dischi. È già mancato una settimana fa, più o meno. Abbiamo voluto ricordare, insomma, come è stato uno dei più importanti esponenti, insieme a Zeca, insieme a Vittorino, a Fausto, della, appunto, di questa ventata di cantautorato, che partiva a volte magari da un modello francese, ma che poi si è riuscito a distaccare incontrandosi con quella che era la tradizione popolare portoghese, anche quella dei canti narrativi, delle ballate, di cui poi continuiamo a parlare stasera, cominciando a parlare proprio dell'universo, possiamo dire, iberico, in quanto c'è una tradizione molto forte in tutta la Spagna, ma non solo, anche in Portogallo e chiaramente in tutte le ex colonie, dove queste tradizioni sono state portate, questi canti narrativi che in Spagna sono un po' una continuazione di quelli che erano i poemi epici che derivavano dai cantari, per esempio il Cantar del mio Sid, oppure di quei poemi, diciamo, cavallereschi, tipo medievali, da cui in qualche modo riprendono alcuni temi epici, tra cui appunto il discorso, i temi storici, religiosi, che sono piuttosto presenti, però rivisti poi nella chiave, come abbiamo visto per le ballate, canti narrativi, una chiave un po' di conflitti individuali e sociali, però soprattutto interni ambito familiare, oppure appunto di differenze sociali, insomma, quindi un contesto un pochino più circoscritto, più simile a quelli che sono gli sviluppi poi all'interno della società feudale nel Medioevo e nel Rinascimento. E per cominciare un po', perché in realtà è stato appunto, c'è molto materiale scritto, perché questi romanze raccolti in romanzero, abbiamo molti testi, addirittura poi ci sono anche pubblicazioni in italiano, purtroppo solo di testi, non di musiche, di questi romanzero, che risalgono appunto al tardo Rinascimento, periodo in cui questi argomenti, queste storie trovavano strada anche nelle varie novelle, quelle del Sacchetti, pure il Decamerone di Boccaccio, insomma questo filone, no, di queste storie, che poi hanno dato vita anche ai vari drammi, per dire, di Shakespeare, di Marlowe. E molto spesso troviamo questi temi delle ballate, li troviamo proprio anche nelle tragedie di Shakespeare, perché comunque erano delle storie che comunque trattavano dei temi che erano sentiti, come per esempio la violenza contro le donne, le differenze sociali, i conflitti tra, insomma, cose che cominciavano ad emergere, soprattutto, ed erano vissuti come argomenti di attualità. Abbiamo parlato però appunto di tutto questo, si sviluppa a livello popolare, ma trova anche chiaramente, come sempre, strade, un contesto colto, e partiamo proprio da un esempio a metà di questo, ovvero sia tra quelli che negli anni 30 del 20-30 del secolo scorso cercano di valorizzare la tradizione spagnola, quella popolare autentica nel flamenco e anduluso e non solo, c'è anche la musica, diciamo, rurale, quindi anche queste tradizioni ballate, c'è appunto Federico García Lorca insieme al suo circolo di amici, tra cui anche il compositore Manuel de Falla. Ed è proprio Federico García Lorca che nel 1931 registra con questa ballerina che era anche cantante, che faceva spettacoli di flamenco e non solo, in cui intervallava la danza anche al cantare le canzoni popolari, che si chiamava, il suo soprannome era l'Argentinita, e in questa registrazione sentiamo proprio una romance, che è Romance Pascual de los Pellegrinos, che è la storia di questi pellegrini che vanno a Roma, che fra l'altro poi ci sono delle ballate anche in Italia che si chiamano proprio così, che vanno, insomma, a Roma, al Vaticano, a trovare il Papa. E questa è una versione appunto per pianoforte e voce. Al pianoforte abbiamo Federico García Lorca, la voce è l'Argentinita, e sono delle registrazioni del 1931. Papá. mamita, porque son primas niña bonita, porque son primas niña. Sombrerito de hule lleva el mozuelo, sombrerito de hule lleva el mozuelo, y la pelegrinita mamita de terciopelo niña bonita, de terciopelo niña. Al pasar por el puente de la Victoria, al pasar por el puente de la Victoria, trompezó la madrina, mamita, cayó la novia, niña bonita, cayó la novia, niña. Han llegado a palacio, suben arriba, han llegado a palacio, suben arriba, y en la sala del papá, mamita, los examinan, niña bonita, los examinan, niña. Le ha preguntado el papá cómo se llaman, le ha preguntado el papá cómo se llaman. Él le dice que Pedro, mamita, y ella que Ana, niña bonita, y ella que Ana, niña. Le ha preguntado el papá qué queda bien, le ha preguntado el papá qué queda bien. Ella dice que 15, mamita, y el 17, niña bonita, y el 17, niña. Le ha preguntado el papá de dónde era, le ha preguntado el papá de dónde era. Ella dice de Cabra, mamita, y el de Antequera, niña bonita, y el de Antequera, niña. Le ha preguntado el papá que si ha pecado, le ha preguntado el papá que si ha pecado. Él le dice que un beso, mamita, que le había dado, niña bonita, que le había dado, niña. Y la pelegrinita, qué vergonzosa, y la pelegrinita, qué vergonzosa, se le ha puesto la cara, mamita, como una rosa, niña bonita, como una rosa, niña. Y ha respondido el papá desde su cuarto, y ha respondido el papá desde su cuarto, quien fuera peregrino, mamita, para otro tanto, niña bonita, para otro tanto, niña. Para otro tanto, niña bonita, para otro tanto, niña. Las campanas de Roma ya repicaron, las campanas de Roma ya repicaron, porque los peregrinos, mamita, ya se han casado, niña bonita, ya se han casado. E questo appunto era Federico García Lorca all'Argentinita 1931, e poi sappiamo appunto c'è la guerra civile in Spagna, sappiamo appunto l'ascesa di Franco, García Lorca viene assassinato, e in qualche modo non è un caso che molto spesso queste musiche popolari, che sono chiaramente nelle lingue locali, non sono appunto in castigliano, per quanto riguarda appunto in questo caso l'Andalusia, ma adesso andiamo in Catalogna, ma potrebbe essere anche per i Paesi Baschi, non è un caso che queste il tramandarsi di queste musiche in qualche modo era qualcosa di resistenza, perché era vietato parlare insomma queste lingue durante il periodo della dittatura di Franco. E quindi, come sempre, e quindi orale, questa tradizione orale è resistita, forse anche di più, ed è rimasta, ed è stata anche la base, per esempio, dell'inizio di molti cantautori, soprattutto della scena catalana, che è molto importante, ancora molto attiva, tra cui per esempio Serrat, che non a caso i primi dischi, poi Serrat ha cantato soprattutto in castigliano, ha fatto questa scelta, e però i primi dischi erano proprio tradizioni, canzoni tradizionali riviste, orchestrate, arrangiate, ed è il caso anche di un'altra cantautrice che invece non ha smesso di comunque cantare in catalano, sia canzoni sue che canzoni di altre, anche canzoni sudamericane, è sempre stata molto impegnata, Maria del Mar Bonet, che in questo disco Canzone de Festa elabora molte canzoni delle isole Baleari, che le isole Baleari sono state proprio una culla, anche per come uno pensa che le isole Baleari siano un posto dove uno va a ballare Ibiza o Formentera, però in realtà hanno mantenuto fortemente queste tradizioni rurali, e soprattutto molti canti narrativi, tra cui questa Amor de la Margarida,

ensa bestia company, ensa bestia company, na margalida seravera. Qui per esempio in questa ballata il secondo tema è anche di una canzone famosa contro, che critica insomma il franchismo, del periodo proprio del franchismo, non della guerra civile, che è nota come la yerba dello scamino. E andando avanti con queste, appunto, queste tradizioni, abbiamo detto, possono prendere da varie, appunto, venivano origini medievali, rinascimentali, prendevano temi da ogni dove. A volte magari alcune cose, ricordiamoci, il periodo dell'umanesimo si recupera alcuni miti e storie dell'antichità classica, ed esempio quindi c'erano molte storie che raccontavano appunto il riconoscimento del, non so, conflitti tra uomo e donna di vario tipo, insomma, per esempio, e questo un po' è quello che ci occupiamo. Tra le varie tematiche, insomma, sono diverse, nel senso che ci sono tematiche appunto religiose, poi ci sono addirittura canti chiaramente anticlericali, un paese cattolicesimo come appunto Spagna e Portogallo, romanze storiche di origine epica, romances di prigionieri, di origine invece carolingia, il periodo insomma dei caballereschi. In questo caso ci occupiamo per conflitti tra uomo e donna, e ne trattiamo con questo in cui c'è un riconoscimento di uno sposo che veniva considerato come, insomma, come morto, invece praticamente lo viene ritrovato, insomma. E questo romance con De Nigno, andiamo a sentirlo, è una versione tratta da questo volume, che è il secondo volume dell'antologia sonora del romanzero tradizionale panispanico di José Manuel Fraile Gil, che ha il pregio non solo di riportare tutte queste versioni appunto in secondo i temi, ma anche, che è abbastanza un classico, ma anche praticamente cosa fa? Riporta molte versioni anche che sono andate nel nuovo mondo, il cosiddetto nuovo mondo, insomma, e quindi molto spesso, per esempio, queste ballate non sono rimaste nella memoria di persone anziane, ma persone più giovani, oppure sono diventate delle canzoni, insomma, sono state trasformate passando l'oceano, oppure sono diventate delle canzoni infantili molto spesso. E questo volume è molto ben documentato. Andiamo a sentire questa versione del Conde Nino, registrata nel 1985 in Portogallo. Que voz é ficar sem ele, morres pelo teu amor. Cavalei com o boi e o urso, ao longe de terra fui casar. A rainha Pedro Coiatua, logo não fui procurar. A rainha Pedro Coiatua, logo não fui procurar. Verde salvar três duas ilhas, tu deste seu lugar, só que a senhora do meio desejava de falar. Se cavaleiro sem casa, com ele eu queria falar. Cavaleiro não sem casa, fui para a casa caçar, que a pressa não era muita, e o mandava nos chamar. Se a pressa não era muita, e o mandava nos chamar. A pressa não era muita, nem tão pouco devagar, que eu deixei a mesa posta ao papai para jantar. Que eu deixei a mesa posta ao papai para jantar. Destas palavras e outras, cavaleiro a chegar, cavaleiro, dá-me um beijo, que à tarde quero voltar. Que eu deixei a mesa posta ao papai para jantar. Que eu deixei a mesa posta ao papai para jantar. Quando eu queria ver, não querias, pensavas que era em mosqueio. Agora que vós quereis, menina, não quero eu. agora que vós crês, menina, não fui arruio. Lá perguntou a Nossa Senhora se a cozinha lá mandou e cavaleiros olham baixo se a demorou-lhe tornar. Darei-lhe, darei-lhe, pus-me-os a profiar. Cada vez ela já está morta, não pode ressuscitar. Cada vez ela já está morta, não pode ressuscitar. Oi, morto. E per la precisione questa era proprio in realtà poi la storia, perché insomma era un po' di fretta, scusate, quindi ho fatto un po' di pasticci. Però sostanzialmente questo riconoscimento tramanti è un riconoscimento poi tragico, tardivo, e muore prima lei, poi lui, e poi sulle tombe crescono dei fiori che si intrecciano, insomma un elemento in cui abbiamo parlato forse anche l'altra volta, insomma, abbiamo accennato, sì, che ci sono molte ballate, e questo è proprio il caso. Il Condenino è un po' il personaggio di questa che si ripete in questo tipo di ballata, insomma, che si ritrova in Portogallo e che è piuttosto diffusa. E l'andiamo a sentire in un'altra versione, stavolta registrata da il ricercatore, quello che è stato un po' il pioniere della musica popolare che in Portogallo, che è stato Michel Giacometti, questo corso che ha percorso negli anni 60 tutto il Portogallo, e di cui andiamo a sentire quest'altra versione, sempre della Romanza do Condeninho. Passiamo a un altro tipo di conflitto. Molte ballate si occupano invece della violenza, insomma, sulle donne, e soprattutto di solito di un ricco signore, oppure storie di rapporti strani, di incesti, oppure di come in questo caso di questo personaggio, il quale prima si sposa la sorella e poi invece mira la suocera, la quale poi usa violenza, e nella violenza che viene usata contro questa suocera richiama quello che è lo stupro che avviene a Lavinia nel Tito Andronico di Shakespeare, quindi per dire come questi elementi che poi erano quasi delle, come dire, dei luoghi comuni, delle cose che si ripetevano e si trovavano nelle novelle, nelle storie, nelle ballate, insomma, nelle tragedie appunto degli autori. E andiamo quindi a sentire questa versione, però non la sentiremo dalla Spagna al Portogallo, ma appunto una versione raccolta da Juan Capra, che è un importante raccoglitore di folklore e di musica tradizionale e non solo del Cile, che fu poi uno dei primi cileni a venire a suonare in Italia ancora negli anni 60, ai tempi che c'era il Folk Festival a Torino, e fu uno dei primi, e proprio questa registrazione è di un disco che uscì appunto pare fine anni 60, registrato da Roberto Leidi, e questo brano si chiama Blanca Flor y Filomena. La mora estaba entre la paz y la guerra estaba la morazada. Entre la paz y la guerra, con sus dos hijas quería, Blanca Flor y Filomena. Con sus dos hijas quería, Blanca Flor y Filomena. El duque Don Bernardino se enamoró de una de ellas, se casó con Blanca Flor y pena por Filomena. Se casó con Blanca Flor y pena por Filomena. Después que se casó, se la llevó a lejas tierras. Questo era quindi Juan Capra, cileno, che appunto qui interpreta una ballata che avevamo davanti, il testo proprio di quel libro che dicevamo, l'antologia sonora del ramassero tradizionale panispanico, una versione valenciana che era molto simile a questa. E appunto questo elemento che appunto ritroviamo nel Tito Andronico, c'è anche l'elemento della, del fatto che Filomena, dopo aver subito violenza e aver subito l'amputazione della lingua, poi comunque scrive col proprio sangue e tenendo tra le labbra una lettera per dire quello che è successo, solo che nel Tito Andronico va a finire un po' in modo diverso e potete andare a leggere come va a finire, non finisce proprio, non la fa proprio franca il personaggio che commette lo stupro. E questa storia comunque è una storia che addirittura era anche trattata da Ovidio nelle Metamorfosi, quindi per dire come ci sono passaggi continui tra come dire opere, cultura scritta, storica, riconosciuta e cultura popolare, per dire come questa poesia popolare è importante valorizzarla, perché col testo e con la musica sono comunque dei piccoli come dire capolavori. Altro che, anche questa è poesia, quando gli interpreti sono bravi, assolutamente. Come il disco del Catalano di prima, bellissima la voce della cantante. E qui, sì, ma comunque anche semplicemente cantato da, come abbiamo sentito alcuni esempi, cantati non da cantanti che le reinterpretano, però insomma a livello popolare comunque sono dei piccoli gioielli. E noi invece andiamo a ascoltare ancora un altro romanzo cantato da un interprete, in questo caso è Victor Cara, che è il cantautore cileno, che canta un'altra canzone sempre che tratta dell'amore e della morte, ma in questo caso non c'è una violenza, però insomma andiamo a sentire anche questa versione, insomma, che testimonia insomma questi esempi sudamericani, facciamo sentire come appunto al di là della, erano canzoni che erano comunque diffuse, sono arrivate con molto spesso con dei testi molto simili al di là dell'oceano. Un sueño soñaba anoche, soñito del alma mía. Soñaba con mis amores, que en mis brazos los tenía. Vi entrar señora muy blanca, muy más que la nieve fría. ¿Por dónde has entrado, amor? ¿Cómo has entrado mi vida? Las puertas están cerradas, ventanas y celosías. No soy el amor amante, soy la muerte, Dios me envía. Ay, muerte tan rigurosa, déjame vivir un día. Un día no puede ser, una hora tienes de vida. Muy deprisa se cansaba, más deprisa se vestía. Ya se va para la calle en donde su amor vivía. Ábreme la puerta blanca, ábreme la puerta niña. ¿Cómo te podré yo abrir si la ocasión no es venida? Mi padre no fue a palacio, mi madre no está dormida. Si no me abres esta noche, ya no me abrirás, querida. La muerte me anda buscando, junto a ti vida sería. Vete bajo mi ventana, donde labraba y cosía. Te echaré cordón de seda, para que subas arriba. Y si el hilo no alcanzare, mis trenzas añadiría. Se rompió el cordón de seda, la muerte que ahí venía. Vamos el enamorado, que la hora ya es cumplida. Qui anche se è la morte che arriva, insomma, eccetera, il discorso dell'arrivare durante la notte, insomma, convegno notturno è proprio una ballata tradizionale molto diffusa anche in Italia, conosciuta anche come picchia picchia la porticella, insomma. Però lì non finisce male, lì è semplicemente l'innamorato che cerca di entrare in casa della sua innamorata e alla fine poi lei gli apre. In questo caso invece è molto più complessa, forse anche più antica, c'è quel tema proprio della morte che arriva come fosse una innamorata, no? E quindi siamo quasi finiti a parlare di musica antica, anche l'arrangiamento di questa canzone un po' lo ricordava. E infatti il prossimo esempio è una congiunzione tra questo mondo, insomma, tra passato e presente, sempre intorno al canto narrativo del romance, ed è proprio un'interpretazione di questo quintetto nordestino del Brasile che si chiama Quintetto Armorial, i quali hanno fatto un importante lavoro non solo di recupero della tradizione popolare nel suo complesso del nord-est, ma anche in qualche modo di avviamento di una tradizione legata al recupero della musica antica, sia di origine europea, sia a volte, come in caso di questa romance de Minervina, proprio una rielaborazione di una romance in chiave appunto brasiliano. E risale al XIX secolo, questo disco è del 1974, un disco molto bello, che si chiama Do Galope Romance, e sentiamo questo romance de Minervina, che è diventato un pezzo suonato spesso anche da complessi di musica, come si chiama? Musica antica. Allora, dal Portogallo passiamo adesso a alcune altre parti dell'Europa. Prima di tutto, questa brevissima ricerca parte dal 1967, quando una casa editrice di Copenaghen pubblica European Folk Ballads, curato da Erich Zeman, Rosenkilde e Bagger. Questa Rosenkilde e Bagger fanno parte della casa editrice. Signor Erich Zeman, che tra l'altro anche ha fatto in modo che a Freiburg avesse luogo l'esistenza del Volkslieder Archiv, ha praticamente uno spartito musicale che raccoglie, divisa in paragrafi, diverse ballate, ballate degli esseri soprannaturali, ballate degli animali, ballate degli indovinelli, che provengono da vari paesi. I nostri ascolti proseguiranno molto velocemente, visto che il tempo è tiranno, in Bretagna, con le suore Godek, le Sœurs Godek. Allora, io non so molto il bretone, e quindi vi lascio semplicemente all'ascolto. Questo è un trio di sorelle, proprio, e la registrazione che ascolterete è del 1972, dove ascolteremo proprio il modo di cantare dei bretoni che raccontano le storie. accompagne de ta chile ou un odiant. Didos, didos, accompagne de ta chile ou un odiant. Lève ton dille, ta gomerdrille, d'où de voitis plus d'une cadence. Lève ton dille, ta gomerdrille, d'où de voitis plus d'une cadence. Un dille, qu'faut au gol, ou y brosse, si d'en mené, gagne frévo. Un dille, peu au gol, ou y brosse, si d'en mené, gagne frévo. Les tibidis, putes en merdrille, noir en guerre, la cosio. Les tibidis, putes en merdrille, noir en guerre, la cosio. J'ai te zillé, ta merdrille, de ma refeldi, dispute canée. J'ai te zillé, ta merdrille, de ma refeldi, dispute canée. Vous êtes un gros nazo gani, de mine non tiré, tiré en duri. Vous êtes un gros nazo gani, de mine non tiré, tiré en duri. Les argodrones, les ondras d'illicité, c'est du devoir d'amis bihar. Oui, ça gredonne, son bras, Lili, que t'es du devoir d'amis bihar. Mais non pas dit de ma café, d'un tiré, mais tu es le doigt. Mais dit de ma café, d'un tiré, mais tu es le doigt. Ma neveille te du Hélandour, t'y ne fait na barra la you. Ma neveille te du Hélandour, t'y ne fait na barra la you. D'amis, non, si elle laboure, donne bouille qui tremenzo. Mais non, si elle laboure, donne bouille qui tremenzo. Vamou de non, si elle laboure, t'in dame de vrai, d'avec allé. Vamou de non, si elle laboure, t'in dame de vrai, d'avec allé. Les doigts mourent, verront en plan, qu'on ne n'en j'abra se vide vé. Les doigts mourent, verront en plan, qu'on ne n'en j'abra se vide vé. Vamou de verront en plan, qu'on t'y arraché, y'a Marmoud Wermo, Waran, Templin, Kentira, Géryo, Madame Isri. Je vais dire petit qui vit, le petit que jure et pétillir. Je vais dire petit qui vit, le petit que jure et pétillir. Queste quindi erano le sorelle Godek della Bretagna. Sì, hanno pubblicato molti dischi e sono, diciamo, erano famose tra il 72 e il 73. Passiamo invece geograficamente un po' più in alto, passiamo in Olanda, dove c'è quest'altro trio di signore che ci raccontano la storia di Lord Helwyn. Lord Helwyn è una ballata del 1300 che dicono abbia ispirato anche la favola di Barba Blu. Quindi c'è il personaggio che però non vive in un castello ma nella foresta, che decapita o pietrifica con lo sguardo le sue vittime e poi alla fine incontra una principessa che si innamora di lui, però la principessa con un tranello lo ammazza e però va a casa, visto che le ballate comunque finiscono sempre tragicamente, la principessa si ritrova senza marito fino alla fine dei suoi giorni. Buon ascolto. Pawnee Trio. Dit is het verhaal van Heer Halewijn. Dit is het verhaal van Heer Halewijn. Heer Halewijn, zongen liedekijn. Al wie dat hoorde wilde bij hem zijn. En dat werd verdonnen door een koningskind. Zij was zo schoon. Al zingend en klingend reed zij door het bos. Thank you. era la ballata di Barba Blu, che è una ballata diffusa un po' in tutta Europa, e di tutta Europa continueremo a parlare senza entrare in specifico la prossima puntata, sicuramente con vari ascolti da Germania, dalla Francia, da Malta e dalla Svezia sicuramente. Facciamo una puntata per chiudere, per salutarvi, in Islanda, con questa ballata che... Allora, in Islanda ci raccontano la storia di Olaf, è una ballata medievale, veniva proprio ballata con una danza che si chiama Vikivaki, che non era tanto gradita dalla chiesa, no? Quindi la storia racconta velocemente del signor Olaf che impersona la chiesa, no? Proprio in qualche modo, perché lui, andando col suo cavallo attraverso la foresta, incontra degli elfi che ballano e lo invitano a ballare con lui. Lui ovviamente dice no, no. Allora la madre degli elfi gli manda una maledizione, alcuni dicono che lo uccide direttamente, e lui muore prima di raggiungere la propria sposa per il matrimonio. E queste ballate sono di tradizione orale, perché si dovevano nascondere, insomma, dai cristiani che li perseguitavano e che nascondevano. Però sono arrivate fino a noi. Sono arrivati visto fino prima a noi. Le ballate catalane. Esattamente, così. Per a fortuna. Basta avere buona memoria. Ecco. Sviluppiamo la memoria buona e con memoria questo festo. Che poi voglio ricordarvi a tutti, è bellissima la cosa di Fahrenheit 451, almeno a me viene in mente il film di Truffaut, al finale, che appunto per salvarsi dai roghi dei libri ci sono tutti questi personaggi che ognuno rappresenta un libro e che si sono imparati a memoria ognuno un libro, e si incontrano e se li racconta la vicenda in bosco dove resistono. Non facciamoci ottundere. Esatto. Buona serata, vi lasciamo con questo ascolto. Ciao serata. Vladimiro, ciao, e ciao Stefano. Ascoltatori, buonanotte. Stičemu strošim za što sakazam. Ólafur reið með björgum fram. Stillir hann. Hittan fyrir sér álvaran. Það rauður login brann. Blíðan lagði byrinn undan björgunum fram. Þar kom út ein álfamær. Stillir hann. Sú var ekki Kristi kær. Það rauður login brann. Blíðan lagði byrinn undan björgunum fram. Þar kom út hinn fjórða. Stillir hann. Hún tók svo til orða. Það rauður login brann. Blíðan lagði byrinn undan björgunum fram. Velkomin Ólafur Liljurós. Stillir hann. Gakk í björg og bú með oss. Það rauður login brann. Blíðan lagði byrinn undan björgunum fram. Eigi vil ég með álfum búa. Stillir hann. Heldur skal ég á Krist minn trúa. Það rauður login brann. Blíðan lagði byrinn undan björgunum fram. Vend ég mínu kvæði í kross. Stillir hann. Sankti María sé með oss. Það rauður login brann. Blíðan lagði byrinn undan björgunum fram.